America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Veniamo ai fatti di oggi. Importante intervento del presidente del Consiglio Mario Monti. Do you think he'll rejoin politics? What would that mean for Italy? Well, he never left politics. Prime ministership. Yes, he left prime ministership. Ecco, Monti ha parlato alla CNN, un'intervista con Christiana Manpour, ha incontrato anche noi giornalisti italiani nella mattinata al Palazzo di Vetro, ma devo dire alcune delle dichiarazioni che ha fatto, forse aveva anche più tempo alla Manpour, erano decisamente interessanti perché è entrato in questione di politica interna. Ha detto che Berlusconi ha tutto il diritto di ripresentarsi. Berlusconi non si è mai ritirato dalla vita politica. È vero che si è ritirato dalla carica del Presidente del Consiglio, ma secondo lui non ci sono problemi per una ricandidatura di Berlusconi. Allo stesso tempo ha detto Mario Monti, lui non si candiderà, è già senatore. Secondo lui è giunto il momento di tornare a una dialettica politica nel paese. I hope that number one we will not need to ask for the use of that instrument, but secondly if we had to, that is devised in such a way that it would not amount to a surrender of sovereignty as Greece, Ireland, Portugal had to. Domanda provocatoria della Manpour, ma l'Italia alla fine dovrà sottoscrivere il piano di condizionalità per avere accesso ai fondi salva stati, come poi chiede la Banca Centrale Europea? Ecco, questa è una risposta secondo me molto importante, molto interessante di Mario Monti. Mario Monti dice, ma io mi auguro di no, forse non ce ne sarà bisogno, ma se ci dovesse essere bisogno di accedere a questi fondi, beh, l'Italia lo farà con una dignità molto diversa da quella che abbiamo visto in altri paesi costretti dalle circostanze a rinunciare alla loro sovranità. Noi non rinunceremo alla nostra sovranità, sapremo come gestire la faccenda. Il Presidente del Consiglio è stato anche piuttosto ottimista sull'Europa, l'Europa si sta muovendo bene, ha riconosciuto alla Germania un ruolo di leadership e ha detto però attenzione, perché è importante che questo ruolo di leadership in Europa che ha la Germania abbia poi un suo contrappunto all'interno del paese, cioè che la Merkel convinca i tedeschi che debbono fare la loro parte e che l'Europa è importante per loro, cosa ha detto che secondo me sta succedendo. Dunque è un discorso a tutto campo sull'Europa ed emerge che cosa? Beh, emerge che Mario Monti è così il portavoce dell'Europa. Lo scrivevo ieri sul nostro giornale, anche al Dipartimento di Stato quando li ho incontrati mi hanno detto che resta per loro un uomo ponte tra Stati Uniti ed Europa, come un punto di contatto verso altri paesi europei, ed è naturale che sia così perché David Cameron, il primo ministro britannico, ormai non è una voce europea autorevole, non appartiene all'euro, si è chiamato fuori da certi passi in avanti che l'Europa voleva fare. Il presidente francese Hollande, beh, è lì da poco, ancora non ha quell'autorevolezza che gli consente di rivendicare un ruolo come quello della Germania, che ha una straordinaria potenza economica, un leader credibile come la Merkel o come lo stesso Mario Monti, che ha la credibilità sia tecnica che quella di leadership politica per aver portato il paese su riforme, come ha detto ieri Monti, che sono andate avanti senza creare instabilità all'interno del paese. Ma sentiamo direttamente il Presidente del Consiglio nelle dichiarazioni che ha fatto ieri in italiano, questa volta a noi giornalisti, nel Giardino delle Rose, nel Rose Garden del Palazzo di Vetro. Quello che vorrei sottolineare è che per il governo italiano e per me questa partecipazione per 3 giorni ai lavori dell'Assemblea Generale è anche un'occasione per una serie di incontri bilaterali che si inseriscono nell'azione avviata fin dall'inizio di questo governo da parte nostra per favorire una migliore comprensione dell'Italia, una migliore percezione dell'Italia e soprattutto della nuova dinamica con la quale l'Italia vuole risanare se stessa per crescere. In questo suo doppio ruolo di leader europeo che parla di Europa ma anche di leader italiano, Monti ha avuto ieri sera una cena molto interessante organizzata dall'ambasciatore Claudio Bisognero, il nostro ambasciatore a Washington. C'erano suoi ospiti Tim Geithner, segretario al Tesoro, William Dudley, il presidente della Federal Reserve di New York, George Soros, il grande finanziere internazionale. C'erano anche però due italiani importanti, Fabrizio Freda e Lamberto Andreotti. Freda è il presidente e amministratore delegato di Estée Lauder e Andreotti è l'amministratore delegato di Bristol Myers Squibb. Sono due grandi aziende americane e sono i nostri due manager che guidano le aziende con maggiore capitalizzazione, certamente superiore a quella di Fiat Chrysler guidata da Marchionne. The events of the last two weeks also speak to the need for all of us to honestly address the tensions between the West and the Arab world that is moving towards democracy. Barack Obama, il suo intervento al Palazzo di Vetro ieri è stato importante anche dal punto di vista emotivo, oltre che da quello della sostanza. Un appello morale alla tolleranza contro la violenza, per la libertà di parola, di religione, una promessa politica che gli Stati Uniti non faranno marcia indietro dal mondo e neppure dal Medio Oriente. Anzi, continueranno a offrire la loro leadership, a sostenere ideali di libertà, democrazia, anche in una regione nuovamente attraversata da tragiche tensioni, da proteste anti-americane costate la vita all'ambasciatore in Libia, Chris Stevens. Ecco, questi eventi hanno creato qualche problema sul fronte degli indici di gradimento in politica estera per Barack Obama. Questa vicenda chiaramente ha avuto un impatto anche nel dibattito elettorale. Dibattito elettorale che tra l'altro si è svolto a distanza oggi, vi dicevo, la Clinton Initiative, creando ulteriore confusione, dove prima ha parlato Mitt Romney e poi ha parlato Barack Obama. Ecco, mi è piaciuto molto il discorso di Barack Obama perché il presidente ha cercato prima di abbassare la tensione. Poi però è stato anche molto chiaro con Siria e con Iran. Il presidente ha condannato il video che ha creato in molti paesi arabi delle reazioni, ma ha detto non si può in nessun modo giustificare la violenza, e parlando appunto di Siria e Iran, pur senza offrire facili soluzioni, ha ricordato che alla fine gli Stati Uniti, se sarà necessario, faranno quello che dovranno fare. Un messaggio questo chiarissimo, soprattutto per l'Iran. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, parlando di canzone del giorno, vi ricordo che ieri Ho così fatto una piccola esibizione in nome del Social Media Week, quindi twittate per favore @MarioPlatero per dirci cosa pensate di Monti, delle sue dichiarazioni su Berlusconi. Stiamo cercando di creare questa atmosfera di social radio network tutta questa settimana, secondo noi molto importante. Ieri è andata molto bene, abbiamo avuto 50 risposte immediate, quindi un rapporto di 1 a 500 rispetto a quelli che ha avuto la ABC, mica male per essere noi un piccolo programma in una radio italiana. Torno alla canzone del giorno, Kisha la ribalta con un nuovo single dal titolo Die Young. Il brano è stato lanciato ieri, farà parte del suo prossimo album Warrior, che uscirà a dicembre. Di Kisha, Die Young. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!